io mi ricordo questo numero di telefono, è lo stesso di 40 anni fa, di 45 anni fa, era lo stesso numero che chiamava nonno. E non è mai cambiato, nonostante abbiano cambiato sede o quello che è, insomma. E tu le conoscevi di vista, Mantò, ti parlo di tanti anni fa, quando eri più giovane, eri ragazzino, le figlie di Pistorozzi, le gemelle o le sorelle, quelle biondine, te le ricordi? Sì, già me le ricordo un po', adesso è passato tanto tempo, tutti li conosco. Conosco all'altra, quella di Lelle, a Chiara, li conosco tutti. È passato tempo, chissà come sono diventate quelle ragazze, se sono migliorate, eccetera. Un po' bassottine erano, però già, vabbè, non faccio commenti. Lo so già. All'epoca Edo, occhio di vetro, li faceva gli anni, faceva ogni tanto, la rigorra che puzzava. Claudio, ci sei ancora? Ci sei andato a mangiare? Che ora è? L'una? Quasi l'una. Da. Vabbè, noi mangiamo tardi, non abbiamo problemi. Pensa che ci siamo presi il caffè a mezzogiorno e quindi anche andiamo a mangiare. Oh, No, sono ai fornelli, già arrivo subito. Il capa. Oh, Nathalie! Ti ho già visto, sì. E di cosa? Abbiamo un po' puramente occupata. Ti dici quando entrava in casa sua, la gatta toccava lo coso di Ryan. E da voi non era tanto lontano, mi. Carina, lo colpevole. Voi portate che si bombori, era un babbo, veda. No, chi sono gli hanno usato a bio? Sì, me l'avevano raccontato a me. Poi via si accontano i barri. Poi chissà se sono veri, se ti racconti, che sa sarei tutto un ceramento, mi. Se vuoi sentire chi sia Gurudoni, chi sa Eva, ballerina, quella è froscia, quella è lesbica, per tutti ce n'è. È vero, te lo mandava, questa è proprio di gente che le cose le sa, che ha vissuto lì, te lo mandava a consegnare un biglioro, s'arrava 10 minuti la bottega e fa... Io sono come San Tommaso e io non credo finché non vedo di persona. Vai Nathalie. Vabbè dai, io vi ascolto che sto pranzando. Vi siete sovrappopolati. Vai Anto. Ho detto che ho visto il coso, ho visto lo smitter. Abbiamo quasi lo stesso segnale con Natalino. Io adesso ero con 4 watt normale. Cavolo. Provate tutte e due a vedere chi passa. Tutte e due normali. Io sono... Attenzione! Hola! Caspita, Antonio, se tu sei liscio, praticamente Natalino me lo annienti. Addirittura. E pure in cui va. Sì, davvero, Natalino me lo annienta, cioè nemmeno sotto lo sento, eppure saranno 5 decibel di differenza, non di più. Non lo so. Cacchio, eppure Natalino c'hanno 5 ottavi, Antonio c'hanno mezz'onda ed è pure, oddio, tu mi hai detto non è molto alta, però il palazzo è già più alto di quello di Natalino, scommetto, sicuramente. Perché dovrebbe arrivare più forte lui. Infatti credevo che passasse Natalino perché non ho guardato lo smitter, adesso vedo che c'è differenza. E Natalino, zona d'ombra è lì, è sempre stato un po'. Ti ricordi al monumento dei caduti del mare, a Polo Torres, no, sopra Balai, la differenza abissale che c'era di segnale tra, ne so, c'era Claudio, Roberto, Gianni e tu arrivavi zero. Perché l'antenna è bassa. Ma all'anima, cioè anche alzandola di 2 metri, non credo che ci possano essere queste differenze. Vabbè, Claudio in alto, Roberto in alto, però Gianni un po' più in basso, però era più libero per la zona mare, c'era Giulio, tu praticamente eri zero di segnale, mi ricordo, vabbè. E comunque fa molto la zona, eh. E beh, ovvio, no? Guarda dove è Claudio, è una cosa, addirittura credo che ci abbia l'antenna, l'altezza dell'antenna credo che sia più alto persino della punta più alta di Scala di Ciocca, capito? Dove c'è l'istituto scolastico lì, credo che sia addirittura più alto di quella zona. Sì, capito? Se l'hai scelta bene la posizione, mi... Sì, infatti, lì è forte, lì è forte, è un punto buono, è un punto molto buono. Cosa è? Perché sale molto in alto, i segnali sono fatti un po' strani, poi va a scendere, magari in una zona più bassa potresti sentire la stessa cosa, come, cioè, l'altro giorno con la boomerang Luca, da lì da Pisa, là, riuscivo a sentire quello di a sentirlo sotto quello di Oristano. Chi è Luca Flipper, tu sei? Io buttateci la mondezza sta boomerang. Per carità, ciao, buongiorno a tutti, auguri a tutti, perché quest'anno la Befana l'ha fatta Antonio, eh. Poi, se vogliamo parlare di antenne da tetto è un altro conto. Andiamo, avete parlato in due, certo? Tu hai sempre detto veloce, riprendiamo in due, in tre. Stavi dicendo, Marco, io facevo boom e basta, è già chiuso l'anno. Siccome io lo squelcio sempre, no? Metto lo squelcio, perché il rumore del QRM mi dà fastidio. E invece poi sono entrato qua, ho visto che c'era il volume basso, vedevo il segnale che c'era, non sentivo l'audio perché c'era il volume basso. Avanti. Dicevo, no, che Luca Giuma mi copre Antonio, dalla Terolce mi copre Antonio, e ho detto tutto. Poi ho detto anche che il Befano potevo farlo anch'io, per il naso, capito? Paro naso. Sì, che se no si rasura uno. E tu me non l'hai visto, questo vale una tromba di Calibar. Vabbè, ma che c'ha il naso grande, sappi che c'ha il mangaglio grande. C'è un naso piccolino, c'è un piccolino Marco, fregate, c'è una volta la tipa, ci sono rimasto male, questa qua vabbè, una tipa che era di chi si buffonava, romana. Ma lo vanno infatti, scusa, il romano me l'ha detto, no? Ma tu vedo che c'è il naso abbastanza grande, ma sotto come sei messo, il romano? Così come tu, sì. Non ho detto niente, sono fatto zitto. Tu devi dire, guarda, io sono tutto proporzionato, come grande il naso e grande anche il mangaglio. Vai Luca. Riprendete questo, facciamo cosa. Dai, ciao ciao. Ah, bravo Luca. Ehi, ti stai dicendo che mi ha detto così, sono rimasto, vabbè, una tipa, ma per carità, ma con una con la toccherei, purtroppo anche deceduta. Era mezzo tossica. E che affa. No, non ce l'avevo con te. E di chi si gussi era? E allora hai fatto bene allontanati. A parte che era una ragazza di uno, che anche lui è morto. Erano tutti due e mezzo, erano trussici, dai. E niente, no, ma non siamo in affutti. La teatra così l'ha battuta. A parte che era fea, ma carità. Questa cosa di mezzo, di vetro. Era zittona, dai, hai detto un bel male, solo che no. Bravo, dura di essere. Mi sa che è morta, c'è quella malattia lì. Mia madre si attacchia. Però avanti poi si teneva conto, sempre ordinata, pulita, profumata, no, pulita, si teneva conto, che magari col tempo si è rovinata, capito? Magari non stava facendo più niente, si era malata di quella malattia lì. E vabbè, no. Dai, io vado a pranzare, dai, riprendete voi, buon pranzo e a stasera, ciao, riprendete anche tu. Capa, ma di che Luca stavi parlando poco fa? Chi è che ti arriva più forte dalla latte dolce? Luca, buon pranzo, dai, di Trabesso. Ma buon pranzo anche da parte mia. Chi due di Luca ti arriva più forte? Luca Flipper, così è. sì, sì, Luca Flipper, adesso non so quanti watt abbia, però lui da dove arriva a 9,25, è un segnale eccellente. Infatti, siccome avete ripreso in due, non sta sovramodulato, avete ripreso in due allo stesso momento. Caspita, passava lui di radio. Lo so, perché lui addirittura, come si dice, ma 10 watt. C'è qualche watt forse più di me. Io sono a 4 watt dell'apparecchio, non so niente né niente di più. No, qua arriva a fondo scala, 9,25 nulla, qua proprio fondo scala arriva, fondo a fondo, forse perché io ce l'ho, si vedono le antenne, non lo so. Sì, conta una cosa però, Antò, Luca Flipper è sempre da casa sua, ed è forte, però Luca, come lo chiama, Luca Manicomio, adesso è fuori sede e arriva a 9,10. E a Santa Maria di Pisa arrivano le più 10, però quando Luca abita a casa sua, qua vicino, no? In via, dopo via Ciulcis, e allora lì è fondo scala, è 9,30, non c'è storia. Qua mi arriva 9,25 dalla Teoce, Luca. Sì, sì, è più aperto per te. Io ce l'ho chiuso la Teodolce, dai palazzi di via La Savoia, tutte quella roba lì. Insomma, sempre giornate di sole, porca miseria, ma io potevo anche uscirmene a piedi, farmi un giro a Sassari. Con questa storia dell'autocertificazione mi rompo le palle, perché se trovi lo stronzo che si vuole attaccare, dice, ma dopo tutto lei non ha giustificazione per uscirsene in macchina, andare, che ne so, a negozi, capito? Boh, e alla fine mi giro le scatole e me ne sto a casa. Mi accendo la TV, mi faccio qualsiasi cosa in casa, cosa ne so, passo il tempo a casa. Buongiorno. Buongiorno, chi è? Gianni Rubrofetta da questa parte, buongiorno a tutti. Sì, ciao Gia, buonasera. Ciao Gianni, ben sentitelo dopo un po' di tempo, che sta entrando poco. E questo bip è un uccellino. Aspetta, c'è l'interruttore del microfono, aspetta che lo stacco. L'ho visto adesso. Tu stai usando il ZG, vero? K di Rosmetro. E ce l'avevo anche io quello. Ma che bip è? Il bip del microfono, Marco. Come ho preso il microfono ho toccato il tastino volontariamente e l'ho inserito. È strano il tono che fa, sembra proprio un uccellino, due toni, cui cui. L'altro mio mette due toni distinti, proprio due toni ben definiti. Allora Gianni, sei pronto per il vaccino? Sì. Ehi, lasciali venire a vedere. Poi lo sai come faranno, no? Dicono, non è obbligatorio, però, se non lo fai cominceranno, non puoi entrare nei pubblici uffici, non puoi entrare, che ne so, a lavorare. 4-4. Quindi, un drocchia. Ti volevo fare un esempio, posso? Vai. Allora, una persona X, no? Lavoro statale, un lavoro anche importante. Già per i tamponi, tamponi non vaccini, il tampone non era obbligatorio, no? Però hanno consigliato ai dipendenti di fare il tampone, non era obbligatorio, però gli hanno fatto capire che se non lo faceva avrebbe avuto conseguenze lavorative, quindi vedi che alla fine è come se fosse obbligatorio, quindi con i ricatti si ottiene tutto. Infatti, obbligo uguale ricatto, è abbastanza semplice. Poi vabbè, già lo sai come quali sono i miei pensieri, quindi non si attaccano a Trump, dai. Io non ci tiro due a canendi di gui, ho visto a fare. Poi chissà, boh. Io non so di cosa c'è dentro, io vorrei vedere la composizione. Dico, ascolti, me ne dia un campione, lo faccio analizzare da un laboratorio professionale. Se mi aggrada la composizione me lo faccio fare, altrimenti, ma guai, hai visto qui tutta la messa in scena, ho già l'esercito portando con aerei, cazzo, con furgoni, scorte, capito? Hanno il terrore che qualcuno lo possa trafugare e analizzare, capito? Non so se ridere o piangere già. è un grande Truman Show, dai. È una grande recita, fa parte del copione. E quindi come si dice? Lo show sta andando avanti, ne stanno inventando di tutti i colori, e purtroppo lasciamo perdere. Ma carità, si sto pigliando in giro, ci stanno prendendo, ci stanno pigliando in giro quella gente lì. Tu che dici un governo, che credo che menta, come potrei d'altronde già, adesso ragionando, dar credito a queste voci isolate che appaiono su internet, a questi santoni, no, che sanno tutto, cioè, come non credo una parte, non credo l'altra, però girano già queste voci che qualcuno avrebbe avuto già qualche grave effetto collaterale, è abbastanza grave anche, forse uno c'è pure morto, per dire. E tu dici, ma la percentuale è accettabile, la percentuale di rischio? Sì, a parte, purché non sei quello che si becca i danni collaterali gravi. Eia, si chiama ragionevole dubbio quello, Marco. Si chiama ragionevole dubbio, lo sai, vabbè, non c'è bisogno di spiegarti nulla. No, vabbè, io sono abbastanza infidente e diciamo che sono abbastanza scettico, poi se queste cose mi vengono propinate a certi livelli, figurati tu, no, lasciamo perdere. Non è cosa, dai. Devo di bianco che va, cutia a piccolo. Giusto, giusto, il giusto commento mi su questo argomento. Ma poi tante cose, ho sentito che con questo governo stanno approvando, cioè praticamente stanno autoassolvendo, non so tramite decreti o con quale criterio, autoassolvendo le case farmaceutiche da eventuali danni provocati dai vaccini, che è un vaccino sperimentale alla fine, stiamo facendo la cavie, o chi ce lo vorrà fare. Mi pare il governo, non so se abbia fatto anche una cosa, per autoassolversi dall'eventuale cattiva gestione di tutta la situazione. Qui siamo a livelli di Mussolini, che ci faceva si modificava lo statuto albertino ad personam per autotutelarsi. Eh beh certo, mica sono stupidi. Crocro. Il gioco. La cosa è talmente grande e purtroppo molti guardano il dito invece di guardare oltre. Guarda, è talmente evidente che questa cosa fa qua a tutte le parti. Cioè, basta farsi vedere un po' di numeri, un po' di statistiche e si iniziano a avere già delle risposte. Lasciamo, guarda. Purtroppo l'illusione che è stata creata è quella che col vaccino si ritornerà come prima. Purtroppo non è così. Questi vanno avanti, non tornano indietro, capito? Quindi, e purtroppo hanno la strada spianata, visto che non si prende tutto per oro colato, capito? Quindi, cosa ne so, cosa vuoi che ti dica? Io sono molto molto scettico. Sono arrivato alle mie conclusioni. E niente, insomma. Cazzo, mi faccio la finestra, ragazzo, Bari ma Chernobyl, capito? Gianni! Dimmi! L'antenna cosa hai fatto? L'antenna non l'ho ancora messa perché ne si prepara in diraria. Ce l'hai quella là, sì. No, c'ho la mia, la boomerang. L'ho messa a posto, sto aspettando l'occasione buona per rimetterla su. Non hai il tetto a catrame. Non ti ho capito, scusa. Aspetta, non c'è il tetto a catrame. Sì, ma cazzo, sta facendo un giorno fa, quell'altro pure. Vabbè. E ti rimetti la boomerang? Claro che sì. Sì, l'ho aggiustata adesso, appena le condizioni meteorologiche me lo permettono la rimonto, dai. E cappa, vai. Già va bene. No, io questa, sono troppo contento. Bene, che ne sono? Non faccio altro che vedere i numeri doppi, 13 e 13, bubu. Chiami io, è mezza, sto già incominciando a cucinare, sto. Giulia, avanti Marco. No, io per pranzare se ne parlerà metà serata, metà pomeriggio, dai, come qui. Ancora lontano. Bene. Lo so, però sai cos'è, per evitare anche polemiche, no, con il controllore di turno, controllore li chiamo, tipo quelli del tram, meglio avere l'autocertificazione di tutto, proprio per evitare, come dice quel salutista, tenete un profilo basso, non scatenate polemiche durante i controlli, se no cominciano allargarsi troppo e già lo sai, no? Non ho molta... Va bene, dai, inutile parlare, sappiamo già, no? Ne abbiamo parlato già. Ehi, ehi, vabbè. No, cazzo, mi metto a ridere perché veramente, cazzo... La narrazione di tutta questa cosa qua, cioè di come viene narrata tutta questa, cioè è una farsa incredibile, capito? Cioè è una cosa che fa qua tutte le parti, è allucinante, fatemi bongare lì, dico cazzo, cioè, è incredibile. Ruia, mamma mia, che adesso ho visto un post dove praticamente c'era una foto dove praticamente venivano immortalati gli ospiti, gli spettatori durante il Maurizio Costanzo Show, cioè a teatro, no? con i separé, alcuni erano con la mascherina e altri senza mascherina, sono di Guido, è tutto serrato, e poi ci sono queste palesi, come si dice? Non mi viene il termine, dai, comunque dai. No, dai, è una pigliata paruguru, guys. Sì, infatti questi programmi anche con Jerry Scotti e roba del genere, ho visto gente senza mascherine, ho detto ma a meno che non sia roba pre-registrata prima di tutta questa cosa. O sono tutti tamponati, gente si fa tamponare ogni giorno per accedere liberamente a queste dirette, o che poi non sono dirette. Vabbè. E comunque secondo me, io non ci credo, perché questa roba che gira, vabbè, è un comune virus. Io non ci credo di non essere venuto a contatto col virus, non ci credo manco per niente, anche perché io sono un po' pasticcione, sto anche metto le dita negli occhi, nel naso, nelle orecchie, e non sono troppo solerte in questa follia di gel, alcol, disinfettare tutta la macchina. Io conosco gente che disinfetta tutta la macchina, tutta, come se fosse roba tipo Ebola, cioè manco... Vabbè, io sono più fatalista, me, cioè i virus esistono, se succede, certo farò minimo, le mani me le lavo una volta tornato a casa, ma tutto lì con sapone, poi... Poi te l'ho detto, per quante precauzioni tu possa prendere, in un modo o nell'altro te lo puoi beccare, quindi come va, certi a certi non fa nulla, certi è mortale, come qualsiasi influenza però. Cioè ci sono influenze che io sono decenni che non prendo influenze, sono abbastanza refrattario, e solo una un po' mi aveva dato un po' di febbre fino a 39 gradi o 40. Però ho lasciato che facesse il decorso e poi è sparita. Però dove volevo arrivare? Appunto, a me le influenze non fanno nulla, anzi spesso non mi sfiorano nemmeno, e a molti li portano alla tomba, e lì dipende dal proprio DNA. No, io sono lo stesso un sacco di tempo che non... Guarda, l'ultima volta a memoria d'uomo, qualche anno fa, mentre ero in campagna, stavo facendo legna, era di questo periodo, o forse era febbraio, sta facendo legna, vabbè, ma non c'entra nulla, diciamo che stavo lavorando, ho sudato e niente, ho preso un colpo d'aria così, ma dopo un paio di giorni è passato tutto, dai, niente di che. Però, cioè, per ricordarmi cose di un certo livello devo tornare indietro, ma di parecchio. Grazie a Dio sono tranquillo, sono a posto, quindi non, figurati, cioè già non tocco medicina e cazzo dagli anni che furono, per cui evito sempre al massimo la possibilità di utilizzare cose insomma medicinali, e quindi non ho, per il momento sono a posto e sono tranquillo, dai. Quello è buono che tu riesca a non prendere medicinali. Io purtroppo per tentare di dormire devo prendere roba di notte, poi non mi corica manco più il pelo, perché un po' sono un po' assuefatto. Però il mio medico ha detto che bisognerebbe scalare, cercare di smettere di prenderlo, detto dal medico, capito? Anzi, molti medici ti spingono anche, dice, ah, non dorme con una pastiglia, ne prenda due, non dorme con due, ne prenda tre. Invece no, questo medico nuovo mio ha detto che vuole intraprendere un qualcosa per farmi disabituare da certi principi attivi, ecco. Vabbè. Ho sempre avuto, sono stato un po' refrattario a tutto ciò che concerne, come si dice, tutto il discorso legato alla medicina così, e tutto quello che gli gira intorno. Mamma mia, lasciamo perdere qua. E niente, aspetta, finisco di rollare una sigaretta. E poi tutto male fa a me, tutto, anche la sigaretta fa male, le fritture fanno male, tutto male fa. Alla fine dovremmo campare d'aria, sentire i salutisti, tipo il Bizanti. Mi fa pisciare la rigiata certe volte, però lui ovviamente tira l'acqua al suo mulino, capito? E le iscrizioni, e i convegni, i salutisti, vabbè, ognuno deve fare il proprio interesse. Sì, ogni tanto mi capita di vederlo. Sì, ho fuori di capo. È fuori di capo, però devo dire che già uno che ci mette la faccia e porta avanti determinate scelte, insomma, questo gli fa onore. Poi come si porge è tutto molto particolare, vabbè, però devo dire che lo stimo proprio per quello che fa, capito? Cioè, sta facendo un suo percorso, mostra altre cose, altre informazioni, altri metodi, insomma. Poi chiaramente ognuno di noi sceglie se condividere, se fare le sue certe cose o meno. E quindi no, io ho stima di questa gente. Poi chiaramente uscendo, quando si esce dalla normalità, come si suol dire, siamo un po' resti a accettare certe cose. Però ogni tanto, ti ripeto, lo seguo, lo guardo, ha questo modo di fare molto originale. Però molte delle cose che dice, insomma, sono assolutamente incontestabili, dai. Chiappa. E anche a lui i video scomodi su YouTube glieli hanno già tagliati, censurati. Io per come conoscevo YouTube, che era un sito, un coso di intrattenimento, di informazione, un po' di tutto, no? Non mi aspettavo che avrebbero cominciato anche lì a tagliare i commenti scomodi, sai, di no vax, no coso, no. Invece sta succedendo, come? Stanno segando le gambe a tutta la controinformazione, YouTube, e quindi ha rivelato la sua, anche lui, o chi per lui, insomma, gestori di YouTube vanno a senso unico. Come dice uno, non è che puoi guardare solo video di gattini, no? E quindi si sta spostando il salutista suddetto un po' su Patreon, facendo sempre informazione sia libera, poi per chi si abbona un qualcosina in più, qualche informazione in più, però il grosso, il 99% dei video sono per il popolo, gratis ad amore dei, capito? E stanno segando le gambe a un bel po' di gente. Non devi toccare argomenti tabù, prima era solo ma si vedeva di peggio su YouTube, video di violenza esplicita, roba del genere, invece stanno segando le gambe a chi fa secondo loro le fake news, perché quelle che fanno in televisione che sono news, anche quelle sono fake news, eh? Vabbè, comunque non cambierà niente. Un pasticcio senza uscita, vabbè. Vabbè, sì, hanno chiuso un sacco di canali. Avevo dei link salvati, ma questo canale è stato chiuso, sono spariti un sacco di canali e molti stanno spostando su altre piattaforme. Vabbè. Come diceva, adesso mi sfugge. È presente quei giochini sulla settimana enigmistica dove sono i puntini numerati? Basta unire i puntini e ti viene fuori l'immagine. Sì, quello è palese. Poi l'altra volta stavo vedendo un video che parlava di questo registro sanitario, per cui prima devi dare il consenso, no, dal 2012 in poi, il tuo consenso per segnare tutte quelle prestazioni sanitarie sia pubbliche che private che facevi. Adesso invece andranno automaticamente, anche senza il consenso, in questo registro sanitario, no? Che magari ancora non sarà consultabile con nome e cognome, cioè servirà per dati statistici senza il nome, no? Tipo Mister X ha fatto questo e questo, no? Senza il nome. Però in futuro magari vedranno, questo non si è tamponato, questo non si è vaccinato, questo non ha fatto questo, poi vedono anche tutti i cavoli tuoi, tipo si è andato a curarti l'impotenza, che sono le emorroidi, e così, insomma, è roba già vista in Cina, anche per la storia del sistema appunti, capito, il cittadino modello, il cittadino serie A, serie B, no? E questa roba sicuramente la vogliono importare, anzi la stanno già importando in Europa, Stati Uniti, eccetera. Proprio come la puntata di quella cosa, di quella serie schifosa lì, che parla di tecnologie e roba del genere. Black Mirror, capito? Praticamente anche lì, appunto, se non facevi certe cose, se non avevi un buon punteggio, se non eri un cittadino con un buon punteggio, non ti facevano entrare a lavorare, non ti facevano entrare lì, non ti facevano addirittura viaggiare, non ti facevano usare tratte aeree, capito? Perché eri un cittadino di basso punteggio, roba schifosa proprio. Cosa che sta a Gosa? Vabbè. Oia. Mamma mia. Ci sono tanti messaggi. Anche per fantasia, Crocro. Io mi sa che mi appropingo a mettere le gambe sotto il tavolo. Vado a mangiarmi qualcosa e niente, dai, quindi mi preparo, dai, ora stacco e magari ci aggiorniamo un altro momento. Grazie della piccola chiacchierata, un saluto te Marco, a Antonio, a tutta la ciurmania del 10, dai. Peccato, dai, salutoni, ce la risentiamo, alle prossimine, avanti, Marco. Che mangio alle 5 e mezza, 6 di sera, il pranzo, quindi adesso vado a farmi il secondo caffè della, della mattina, tra virgolette, così mi sveglio di più. Vai Antonio per i saluti. Noi ci avevamo parlato in due e non mi ha sentito a me. Dai, ce la risentiamo. Oh già, ce la risentiamo. Avanti Marco. Ok, vado, sì, no, dicevo, appunto le persone normali mangiano a quest'ora, io mangerò sempre al solito orario balordo. Per me è mattina ancora, adesso mi faccio il secondo caffè per svegliarmi meglio, capito Andrò? Ciao ragazzi, dai, salutoni, ci aggiorniamo quanto prima, ok? Bye bye. Bye, ok. E Marco, dove c'è andato? Sì, adesso mi io fra poco, ancora sono. Ma l'una e mezzo. Sara! A te Sara era, Rangona, e accendi che mettiamo la pasta, giù. Fra un pochettino si mangia. Io stasera per pranzo praticamente faccio ravioli, mi pare siano gli spinaci, ricotta e spinaci. Sì, volgari, ravioli, ricotta e spinaci. Per il secondo non mi sono organizzato, ma non c'ho un granché come secondo. Vabbè, vediamo un po', qualcosa mi inventerò. Ok. Anto, ho visto la bolletta, aspetta, 1700, ma il mese di riferimento, a che mese è riferita? Tanti mesi o un mese o due solo? Mesi riferita, l'altro è arrivata a 160, e vabbè ci siamo anche perché questa qua di due mesi lo stesso, ma c'è sbaglio, non è possibile. Infatti, ma il contatore ce l'avete dentro l'appartamento, sì, il contatore, no? Stavo pensando, non è che all'esterno, no? Non è che qualche negraccio lì di zona si è collegato con i fili alla corrente, no? Potrebbe essere, ma però non giù, no, io stavo guardando, non è che ne capisco molto, io stavo guardando e cambiano i kilowatt. Adesso domani se risulta Carlo Felice va e se lo fa spiegare chi è che voleva entrare? Anche tu non è un bel Renato, non fa finta tonta. Cosa hai detto? Che non hai droppi di Renato. Vai con la droppi di là. La mossa mara che si bonghia. Ti conosce ormai Lene? Sì. Adesso la matta Edda, a me non mi conosce ancora, conosce a Sara. Vai, dimmi se ambasso il contatore, vai. Ma ho fatto il contatore per quella pittorra che c'è macchia di candena. No, a parte gli scherzi, il contatore è sempre dentro l'appartamento, Luca, o sto sbagliando io? Ce l'ho giù io. Ah, al di fuori dell'appartamento, non sai perché te lo dico, tanti anni fa era successo che era venuto uno a abitare temporaneamente e si stava studiando il contatore che c'è nelle scale, che poi è quello della luce delle scale, e voleva collegare i fili, ma l'ha detto a me, voleva collegare i fili per portarsi la corrente nell'appartamento. Ha detto, ma sto scherzando, cioè, fuori di gabbo, vai lui. Ah, Giussi, boh. A furare, sempre a furare. Mi pare anomalo, il 1700 euro, cioè 10 volte tanto rispetto alla normale bolletta, e lui gli arriva a 150, 160, ha detto no, 1700 euro, ma io credo che anche se tu facessi lavatrici tutto il giorno, scaldabagno tutto il giorno, stufa i letti tutto il giorno, non arriveresti a quella cifra, mi pare proprio una cosa veramente anomala, ma... Una cosa anomala sì, ma manco per sogno. Cavolo, se non riesco a risolverlo gli parte la denuncia, perché io quella cosa non l'ho consumata. Cioè, vado a riconsumo, rimotto fare un burattana di grillo, rimotto fare, perché quella luce qua non l'abbiamo consumata. Certo. Yeah. Tu vai a lei con una bomba in mano e un accendino, vedrai. Magari io confungo io. Bueno, io da quello che ci ho potuto capire qua, io quelle cifre non ci sono sul contatore. A quanto ho potuto capire io. C'è una mediana Eddy. Lei usa il forno, lei usa la stufa elettrica, capito, se ne scegli così. Tu dici, se non risolvete queste cifre, li fai vedere le bollette di prima, gli dici, se no sta partendo la denuncia. Una ce n'è di prima, che è arrivata quella di 160 euro. È impossibile, perché? È impossibile, qua. Il forno però... Il forno poi, noi lo usiamo poco, poco, poco, mi sono scaldabagno, usiamo, di più là la Patrice. La stufa ce l'ho a gas, perché non è in... Il condizionatore ha già chiudato tutto in occhio, mia madre che si attacchia. Cioè, ti puoi immaginare. Cioè, poi io mi... L'unica cosa che uso sono il baracchino qua e basta. E cosa devi mai... Cioè, siamo a livelli di pizzeria, di cosa del genere, me. Non siamo a livelli di una casa, ma a macchie siamo in occhio. Lo so io cos'è, è il lineare da 3 kW che c'ha Antonio lì. Non lo dice però quel. E allora? Cari l'avete avuto. Te immagineggi, l'ideale a 3. Ma io dico che anche usando tutti i giorni non arriveresti a quella. Quelli sono consumi da pizzeria mia, Antonio, come hai detto tu. Manco avessi vari forni elettrici da pizzeria, 3 kW ciascuno, quant'è? Forse allora ci arrivi. Cazzo, 1700 euro. Ci sono macchi. Ma la pizzeria guadagna il doppio però, fa. Per arrivare con la bolletta lì. La pizzeria non guadagna 100 euro, no, al mese. Cioè, al mese c'è una pizzeria che lavora, minimo guadagna da 3.000, se lavora, guadagna anche 4.000 euro al mese, e ci sta, quella bolletta te la paghi. Spiega, a voi i contatori sono digitali o ancora quelli meccanici? Ah, roba digitale, non ce n'è più di quella roba là. No, sai, perché con queste, hai visto che loro hanno quel lettore dall'esterno dell'appartamento, anche riescono a leggere, no? E che ce ne so io se si può hackerare anche lì qualcosa con queste cose wireless, o alterare volontariamente i dati, tutto è possibile lì. No, so io, sono cazzi loro, sono. So solo che queste cose non vanno bene. Poi non ho mai capito come funzioni. Loro hanno questa specie di computerino, no? Tascabile, anche da fuori della porta, senza bussare nemmeno. Credo che riescano a leggere i dati, non so se sia, non Bluetooth non penso, comunque una cosa wireless, capito? E lì si possono fare lo stesso, se vogliono loro possono fare abusi, ci mettono uno zero in più, capito? Due zeri in più di consumo. Fuori del gabbo. Vai Luca. Bisogna stare attenti. È un casino, Marco, è un casino. Che giunto in occhio a fare la lettura è un grandissimo, non lo voglio dire, un grandissimo guglione. Ah, di persona è venuto. Va chiarita questa storia però. La chiarita, perché sennò loro ti dicono, sai come loro la fanno facile, dice lei nel frattempo paghi, poi farà ricorso. E cosa mi devo vendere? Un rene per pagare la bolletta fazzulla? Oh no, io non pago nulla, Ando adesso devo parlare con un discorso. Cazzo, ti mongo una boccata, vi ruba che di voi. Adesso vediamo quando sale su cosa gli dicono. Cosa dicono? Adesso saliamo su quando cosa dicono. Secondo cosa cavolo dicono? Noi stiamo andando all'ordine di consumo, al servizio consumatore, ti mettono l'avvocato e tutto. Li denunciamo e sono cavoli loro, sono cavoli amari. Infatti non sono cose trasparenti, magari ci tentano una volta con uno, una volta con l'altro, capito? qualcuno magari preferisce, sai, non ne ha voglia di battagliare, pagare, ma pochi credo che siano me. Sì, poi loro lo fanno facile, dice, prima c'è va pagato e poi casomai si fa di casomai, ti venga di gingo, insomma, via. Vabbè. Portiamo i dati noi, i dati di sale, li porta. Cioè, noi non possiamo pagare una bolletta del genere, cos'è? Cioè che legato devo guadagnare per pagare cose del genere? No, aspetta un attimo che qua... qua cavolo, i noghi fino all'ultimo centesimo nei carane, toccano i raruzzi a vedere, tocchiano, cazzo, ma lo metto abusivo, me lo metto, poi viene a farmi qualcosa che mi ha attaccato la luce senza motivo, pezzi di merda che non sei di altri. Ma e che lo sa, aspetta, cosa, io ricordo un episodio analogo, non mi ricordo se era per l'acqua, per la luce, e se era successa a qualcuno del baracchino o qualche familiare mio, non mi ricordo, gli era arrivata una bolletta astronomica, forse dell'acqua, e gli hanno detto, ma scusi, io cosa c'ho, una centrale idroelettrica a consumare tutta quest'acqua, non è possibile, anche se tu lasciassi i rubinetti, tutti i rubinetti tutto il giorno aperti, non si arriverebbe mai a una cifra del genere, quindi sono o lonfiate, sono o delle sviste oppure delle lonfiate fatte apposta, loro ci tentano, poi dice se va male tentiamo con un altro pollo, capito? Vai lui. Ma togli il cognome, faccio moroso. Che cazzo? Già un'altra cosa, un'altra scorrettezza, che non è arrivata ancora la luce dell'acqua. L'acqua non è arrivata, già questa è un'altra scorrettezza. No, ma relativa a quale? A dicembre o a gennaio? Come funziona? Aspetta, a noi ne è arrivata una a dicembre, una è arrivata, forse che stiano ritardando con questa storia delle feste, Antò. Che vadano a fanculo, vadano, loro, l'acqua, lì, qua per carità che gente. Marco! Ehi, Alù! Ma perché da te mi segnale quanto è? Vedi un po'. Allora, aspetta che guardo meglio, vai, credo che sia circa 9.25. Tu sei sempre arrivato molto forte qua. Vieni un po'. Questi sono i botti al baracchino, eh. Allora, diciamo che sei tra 9.20 e 9.25, dai, più o meno. Sì. Comunque, il tuo è sempre un ottimo segnale da lì, eh. C'è qualcuno che arriva molto meno forte, pur avendo l'antenna sul tetto, proprio di quelli vicini a te. Vabbè, io adesso l'ho ripristinata, la verticale, e niente, ho fatto l'unico cambiamento, capo di salita da 6 mm e la nuova. E niente, non è cambiato niente, solo... E l'ho ritirata su, sarà 5 metri, 6 metri dal tetto. Sì, comunque lui, io qua la differenza è decimillimetrica, poi la mia vista sta peggiorando, però potrei dire che è un 9,25 col 3009. Ti dirò di più che se io metto il CRT 7009 che ha 9,60 di fondo scala, come Kenwood, no? Sicuramente ti segna a te 9.30 se non di più, capito? Purtroppo questi apparecchi non ci hanno smitter tutti uguali. Comunque Antonio adesso è passato, ha fatto una prova, però sicuramente ha attaccato di brutto, di brutto, te lo dico io, vero Anto? No, non ho attaccato niente io, no. No. Anto, cioè se prima avete ripreso assieme per sbaglio, no? E passava di modulazione Luca. E come hai fatto a passarlo di netto adesso? Magari un istante hai pronto il tastino, il booster, tac, e poi staccato. No, vabbè, ero da poco fa, ero attaccato, ero. Adesso sono con 4 watt, però Luca mi deve dire, deve dirmi quanto sta uscendo. 20 watt adesso, di portante. Io sono con 4 watt. Aspetta, metto anche un 4 watt, aspetta un attimino. Allora, aspetta che cambio scala nel rosmetro. Ecco, 4 volte precise di portante, 10-12 modulati. E K, allora per essere così io devo fare, perché questo è 4 watt, devo fare una modifica, aspetta, 2 secondi. E poi già se ne sarà accorto Marco. Guarda Marco, passo da 4 a 20. Sì, ma una cosa infinitesimale lui. Guarda, l'unico smitter buono è la 140. Solo quello l'impianto del 140, lo smitter. Questo è casino, casino. Vabbè. D'altronde, se non mi trovavo tanto bene, non, era inutile tenerlo, anche dai. Allora, adesso siamo con gli stessi watt, sono 12 modulati tuoi, vero? 12, sì, normale sì. Ok, 12 pure io. Com'è? Io, parlate assieme. 1, 2, 3, sono 6 riportate massimo. Sì, allora, adesso passa Antonio di modulazione. Antonio è più vicino, linea d'aria è molto più vicino, vabbè, che prove. Una curiosità, Luca, ma quando Antonio ha 4 watt e quando anch'io ne ho 4, come adesso, che poi sono 3, il segnale mio rispetto al suo com'è? Dovremmo essere equidistanti, grosso modo, da te, no? Quanto sei 9,40? Ma con strumento professionale, con smitter buono? 9,40 modulati, 9,30 sì. Ah, no, questo da 7,06. Ah, e a voglia, allora va bene. Mi pare a LED però va bene. Antonio, tu con 4 watt quanto arrivi là? Prova a metterne 4 di nuovo. Io devo mettere l'apparecchio a 4, un attimino. Eia, che poi ripeto. Mi sono perso. Sì, che l'apparecchio ha 4 watt, ma io per prudenza non sarei nemmeno obbligato a tenerlo. Oh Luca, tengo sempre quel famoso filtro passa basso, no? Per evitare eventuali TVI, cosa comunque già impossibile, testato con, sul mio impianto, su due impianti, uno su uno giù, con lineare, niente, non c'è modo di fare TVI, però l'impianto mio TV è fatto perfetto. Allora adesso siamo con 4 watt tutti e due, com'è? 4 watt giusti giusti sono i tuoi. Aspetta, che devo rientrare nel menu. 4 sono adesso. Modulati Marco, e io sono 4 watt, sono la differenza tra me e Marco. Ehi Lu, Antonio quant'è da te rispetto a me? Prova tu. 2-3 prova. 9,30 modulati Antonio, tu sei 9,40 modulati. E allora è l'altezza che fa, e conta che sono chiuso mi da dei palazzi alti, vabbè, l'altezza fa molto. Anzi ti do di più, vado? No. No, non per la prova è relativa, no, l'importante è che esca bene in radio. No, ma volevo dire Antonio, io ho 4 watt all'apparato, però c'è un filtro che mi ruba un watt, quindi dal filtro ne escono 3 di watt, in più ho 50 metri di cavo, che nonostante sia la RG213, sicuramente un po' di attenuazione me la dà in trasmissione, capito? E questo non lo so, ok. Dice quando do quello che mi ha venduto, quello che mi ha dato Luca, già va bene comunque, sì, più o meno siamo lì, dai. Ok, dai, pronta a mangiare, ce la risentiamo, ok? Ciao, buon pranzo, salta a casa, alle prossime, ciao ciao, avanti Marco. Ciao Antonio, come dico sempre io, di traverso, dai, buon pranzo, in senso buono, di traverso, dai, sentiamo. Buona serata con tutto. Hai tu mangiato, Luca? Sono al computer, sto provando una stampante. Che ragazzi, se no, è che ci siete voi, se no non avrei mai acceso. E infatti questo orario è inusuale, io la mattina non accendo mai, oggi ho provato verso tipo mezzogiorno, appena ho bevuto il caffè ho acceso, ho sentito Natalino che stava parlando con Antonio, Antonio era in portatile, a giù meno non lo sentivo, avevo un po' di squelce. Poi da Natalino poi è entrato Claudio, è entrato Antonio, è entrato il profeta poco fa, così una chiacchieratina ce la siamo fatta. Ho visto la bellissima disposizione delle radio di Claudio, adesso è tutto ordinato, tutto, poi tutto in serie, c'è cioè una sfilza di microfoni tutti uguali, in linea, tutti MB più 5 e un MB più 4. E quindi da una parte c'ha i vintage e dall'altra c'ha le radio amatoriali. Molto bello, pulito e ordinato. Quando c'ha una bella scrivania, già lo credo. Così vuole allora, oppure una scrivania nei piani, in modo che ci metti quello che utilizzi poco sopra. E un bel piano di lavoro ci vuole. Io invece, se ti ricordi, c'ho un portatelefono di chi si vede, poi brutto anche, cioè 40x40, ci sta un baracchino e il ricevitorino da tavolo e sotto l'alimentatore, questa è la stazione, perché io francamente sì, è bello anche avere una stazione, no, un ripiano grande dove poggiare il teleradio, però certe volte penso di questi tempi, no, che bussano, non sai mai chi è. Per evitare sorprese è meglio non tenere troppa roba in vista, solo la roba omologata, tipo questo. Infatti bisogna fare così, sì. Chiappa, ma comunque siamo tutti tranquilli, cosa devono, denunce non ne fa nessuno, sicché bisogna stare tranquilli e senza strafare in effetti. No, infatti. Mi chiedevo solo una cosa, ti spiego lui in breve, no? Allora, chi era titolare di concessione, no? Chiamiamola concessione alla vecchia maniera, no? Quando veniva per esempio alle scoporte a fare i controlli era tenuto a farli entrare, no? Anche senza decreto di perquisizione, che è una cosa, vabbè, molto più grande, il cosiddetto mandato, no? Cioè chi era titolare di concessione era tenuto a farli entrare per i controlli di diritto, no? Ma adesso che noi non abbiamo più, che l'uso è libero, no? Che non, la concessione non serve più, il bollettino nemmeno. In caso di controlli loro come agiscono? Cioè se non sanno nemmeno se hai un baracchino, come fanno a entrare? Entrano direttamente con mandato del giudice, come funziona adesso? Credo proprio di sì. Beh, le regole bisogna sempre rispettarle, Marco, non è che perché non c'è più concessione uno debba montare lineari o baracchini fuori norma, perché le regole secondo me bisogna sempre seguirle. Ehi, aspetta che stavo ricevendo messaggi. Sì, no, perché qualcuno aveva capito, adesso dice hanno abolito, dice adesso è libero l'uso. Qualcuno aveva inteso, l'ho sentito al baracchino, uso libero come che potevi usare qualsiasi cosa, lineari, apparecchi HF e tutto. Ho detto no, hanno solo abolito la domanda, la cosiddetta inizio attività o come si chiama, dai. E anche il bollettino, hanno abolito il pagamento del costo, tutto il resto rimane uguale, tutte le regolamentazioni, giuste o sbagliate che siano, rimangono tali. E poi stavo sentendo qualcosa, non lo so, per questa storia della tripla 5, cioè la fetta da 27,5 a 28, è come se a livello europeo la stessero tenendo d'occhio o la volessero svuotare per usi futuri tipo esercito, che mi pare sia assegnata all'accoso, al Ministero della Difesa, può essere, lo sto sbagliando io. Me ne aveva accennato Gianfranco, però non mi ricordo come sia la cosa. Cioè stanno in tutti i campi, con questa Europa stanno rompendo le palle, stanno cominciando a inasprire tutto, a chiudere tutto, a vietare tutto, a fare controlli, a stringere sempre di più in tutti i campi. E non vorrei che anche i gruppi DDX consueti, che però fanno DX tutto l'anno, cioè tutta l'estate DX ogni giorno, iniziassero ad avere problemi, capito? Perché poi iniziano dai gruppi più grossi, poi magari fanno storia magari a me che ho salutato un italiano, facciano DX sulla tripla 5, capito? Ma infatti che fastidio.